Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Volte uno pensa che per cambiare vita bisogna trasformarsi in chissà cosa, raggiungere un qualche status o andare in delle località esotiche lontanissime. Molte volte in realtà si può cambiare vita anche recuperando delle cose che avevamo perso o abbandonato. Ad esempio noi a un certo punto abbiamo abbandonato tutti la campagna, non tanto come posto, proprio come concetto, come stile di vita. Abbiamo lasciato la zappa, il rastrello, la vanga, abbiamo abbracciato proprio il computer, le scrivanie, le automobili, i telefonini, gli uffici con l'aria condizionata. La penna pesa meno della zappa, mi diceva sempre un professore alle medie per incoraggiare tutti noi a studiare, e aveva ragione. Solo che adesso che siamo diventati tutti cittadini tecnologici, concettuali, urbani, sentiamo che ci manca qualcosa, e questo qualcosa alcuni se lo vanno a cercare proprio nel contatto con la terra e cercano di strappare alla città un pezzettino, uno spazietto per coltivarsi qualcosa, proprio un po' di verdura, un po' di frutta, qualcosa che cresca e ti dia la soddisfazione quando la mangi di dire: questa l'ho fatto io. Oggi parliamo di questo, di persone che hanno un orto in città, che coltivano qualcosa sul balcone, nel giardino. Se lo fate, se siete più bravi di Nonna Papera, ma anche se siete negati e vorreste migliorare, chiamateci 800 24 00 24. Siamo venuti qui nel mio piccolo orto urbano per preparare il terreno, questo è letame di cavallo, l'ho sparso un po' per tutto il perimetro della terra e adesso incominciamo a fare la vangatura. Ecco il nuovo orto urbano sul balcone, qui ci sono le piantine e questi sono i vasoni dove interreremo le piante. Sotto scorrono le moto, siamo al quinto piano. E questi erano alcuni tutorial, come si dice adesso, di presi da YouTube, alcuni video che spiegano come realizzare qualcosa, in questo caso come realizzare un orto in piccoli spazi, in spazi urbani. Benvenuti, venerdì 27 agosto, questo è Giro di Vita, il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e si è inventato una vita nuova, un nuovo inizio. Io sono Achille Corea e come ogni venerdì noi rallentiamo un pochino, non vi raccontiamo cambi di vita drastici o esotici, ma parliamo di cose alla portata di tutti, anche così per stimolarvi, perché poi magari sabato e domenica, vale anche per noi, magari in quel tempo libero che abbiamo prendiamo qualche spunto, prendiamo qualche suggerimento dai nostri ospiti e proviamo a fare qualcosa alla portata di tutti. Oggi parliamo appunto di chi si fa un orto in città o come coltiva comunque qualcosa, si riscopre piccolo agricoltore e riscopre in questo modo il contatto con la natura. Se volete parlarne con noi 800 24 00 24, oppure se siete su Facebook commentateci, già è partita la discussione sulla nostra pagina che si chiama Giro di Vita. Noi cominciamo come sempre con un ospite, con la storia di Luigi. Pronto? Ciao Achille, ciao. Eccoci Luigi, una delle voci che abbiamo sentito prima era la tua, che ci spiegavi come, sì, come la coltivi. La vangatura. Tu hai un sito che si chiama ortourbano.it, lo spazio dei coltivatori urbani. Come ti è venuta questa idea? Beh, è stata una coincidenza, avendo conosciuto un mio collega di lavoro. E comunque parte dal fatto che io già a 16 anni sono partito via dal mio paese perché lavoravo in campagna con mio padre, ed era un po', diciamo, una vergogna essere contadino, no? Ho cercato di civilizzarmi al nord, diciamo. Di dove sei? Di Lecce sono io. Di Lecce, ok. Castri di Lecce, sì, un paesetto vicino Lecce. E dove sei andato? Sono andato in Lombardia per fare il cameriere. Dalla Lombardia sono passato alla Liguria, poi sono stato in Germania fino al 97, quando poi ho sentito proprio il forte desiderio di di ricontattarmi con la terra, insomma, con la natura, perché non mi sentivo soddisfatto, sono un po' emozionato. Tranquillo. Senti, e quindi hai sentito il richiamo non della foresta, ma il richiamo della campagna, della terra. Sì, della terra, proprio, di essere, non so, di avere un rapporto di nuovo, di recuperare anzi un rapporto con tutto quello che mi circonda, no? Cioè la natura, con le piante, con i frutti delle piante. E senti, dopo questo giro che hai fatto, la Lombardia, la Liguria, la Germania, adesso dove vivi? Adesso vivo a Roma, in via Acqua Pulicante, sulla Prenestina, perciò una strada, diciamo, quasi al centro di Roma. E come fai a soddisfare questa voglia di terra e di campagna? Ma da un'aiuola di piante l'ho trasformata, un'aiuola di piante ornamentali l'ho trasformata in un'aiuola per orto. Naturalmente non c'è stato bisogno di leggere libri o internet, perché non so usare il computer e non ho intenzioni di imparare a 41 anni, diciamo. Così ho usato questo pezzo di terra per poter appunto recuperare questo rapporto. Ma la cosa bella è che le prime esperienze sono i pomodori d'inverno, la semina, tutte queste cose. Ma tu non fai questo per lavoro, cioè tu fai altro? No, io faccio il manutentore in un'azienda televisiva, si chiama Block TV, dove anche qui sul posto di lavoro in ufficio ci sono due pezzi di terra dove l'ho trasformato, invece di aiola l'ho fatti a orto, diciamo. Tu vai lì e dici non fiori ma pomodori, cioè non... Sì, pomodori, cetrioli e patate. Abbiamo fatto già la raccolta delle patate sui 10 kg su 4 metri di terra quadrati. Senti, ma la reazione com'è quando tu vai lì e gli dici senti, ma questa aiola che abbiamo qui in ufficio, perché non ci piantiamo delle patate? Loro che ti dicono? Beh, prima ci sono stati dei contrasti, perché hanno detto no, perché sai, l'occhio vuole la sua parte. Poi si sono ricreduti, perché poi è stato bello che le piante avanzate le ho messe nel vaso e le ho regalate ai miei colleghi di lavoro, no? E il giorno dopo, cioè dopo vari giorni, quando sono incominciati a spuntare i primi fiori, i primi frutti, i pomodori piccolini, era proprio un bel momento quando li vedevo entrare che mi cercavano, dicevo Luigi, è nato un pomodorino, che bello, cioè provocare anche emozioni nelle altre persone. Insomma, è una forma di terapia, cioè la gente è più allegra quando spunta un pomodoro, un cetriolo, insomma una patata. Scusa, una curiosità, in un'aiuola di un ufficio, quante patate fate? Ma guarda, io sono riuscito a piantare 16 piante in 4 metri quadrati, tra cui ne sono usciti circa 10 kg, più o meno, 8 kg e 9 così. Ho capito, e dimmi una cosa, ma tu pensi che alla fine tornerai alla campagna o questa è una dimensione giusta, cioè stare in città e avere questi piccoli spazi? Io a fine ottobre mi trasferirò in Veneto, perché è una terra che offre. No, mi trasferirò là con mia moglie, diciamo, e ho proprio intenzione di fare il coltivatore diretto, cioè fare tutto ciò che ho bisogno a casa mia, sia per mangiarla fresca, sia per conservarla, e anche il superfluo, se trovo, con un carrettino venderlo agli angoli delle strade, insomma. Insomma, la campagna te la vuoi vivere sempre di più. Però dimmi una cosa, prima hai detto del computer, ma io vedo che sul sito addirittura c'è la diretta dell'orto, cioè c'è la webcam sull'orto, come è una tua idea? Sì, questo è Alessandro De Angelis, il mio collega, che ci siamo coinvolti a vicenda e abbiamo pensato di fare questa cosa. E vi scrivono? Vi scrivono curiosi per sapere come fate, come ci sono? Ci sono delle persone che ci scrivono per avere informazioni, il periodo che si possono piantare le zucchine, il periodo dei pomodori, se la foglia dei pomodori è piena di pidocchi, che sono dei piccoli vermetti. E voi insomma date tutte le indicazioni. Sì, tutte più possibilmente naturali comunque, Achille, non cioè l'aglio nell'acqua, l'ortica infusa nell'acqua calda e poi lasciarla un po' così e spruzzarla, tutto così. Giustamente tu mi dici, se uno si mette a farsi l'orto per recuperare il contatto con la natura, poi che fa? Si riempie di roba chimica? No, è giusto, no, no. Giustissimo. Luigi, senti, io ti ringrazio, lo do il tuo il sito, che è www.ortourbano.it. ci sono dei video, ci sono tutte delle spiegazioni, e secondo me, come ti scrivono adesso, sentiamo insomma le reazioni e l'interesse dei nostri ascoltatori, che possono chiamare all'800 24 00 24. Controindicazioni. Questo stile di vita è sconsigliato se avete provato a incrociare la menta con il limone per fare l'albero del mojito. Quando vi dicono zappa, voi rispondete Frank? Siete convinti che esistano le piante di insalata mista? L'unico vegetale che siete riusciti a coltivare è il muschio nel frigorifero. Innaffiate le piante con olio e aceto, sperando che vi crescano le verdure già condite. Boh, non so se il livello è questo, spero di no, dai, un po' di reminiscenza contadina, ce l'avremo, no? Se uno ci si mette, poi magari qualcosa per sentito dire, qualche ricordo vago ce lo dovrebbe avere, pur essendo un cittadino. Vabbè, noi tra poco avremo un esperto da cui farci spiegare, insomma, anche delle cose pratiche magari per stimolare. Invece nel frattempo vorrei sentire un ascoltatore, per sentire cosa ci racconta. Angelo, pronto? Ciao, pronto, mi senti? Sì, eccoci, Angelo, tu hai cambiato vita per... No, cambiato vita è un giretto di vita. Hai fatto, diciamo, un giro, no, quello che facciamo il venerdì, un giro domestico, una un cosa giro domestico. Alla portata di tutti. Qual è? Assolutamente sì, raccontavo alla sua collaboratrice, quando 10 anni fa sono stato assunto in un'azienda per le mie competenze informatiche e tecnologiche, una multinazionale, una fatica per vendere siti, io compravo computer, montavo, smontavo. Poi mi sposo, cambio casa, giardino, prima tagli l'erba, poi dici ma tagliare l'erba non porta niente, cominci ma prova a zappare, papà contadino che ha provato per anni a insegnare qualcosa con scarsi risultati, insomma oggi 10 anni dopo, 4 anni che ho questo giardino, mi trovo che i computer sono rimasto fermo a 6-7 anni fa, non ho più guardato niente, e in compenso pomodori, insalata, cipolle, zucchine, ma faccio poi le foto, le carico su Facebook. Tutto, ma scusa, adesso giardino... lo fai per lavoro? No, lo faccio per me, basta. Ah, per è proprio sì, come ho scoperto che è proprio bello prendersi il sabato mattina, lavorarci dietro, pulire, è stata una scoperta incredibile, insomma. Ma scusa, una curiosità, quanto spazio hai? Non è proprio piccolissimo, sono circa 20 metri quadrati, quindi poi me lo son vangato, me lo son zappato, tutto. Ma dove, in che parte d'Italia? A Busto Arsizio, in provincia di Varese. Insomma, siamo nemmeno sperduto. Ma dimmi una cosa, hai raggiunto un'autosufficienza? Cioè, compri dell'altra roba o mangi la tua? Allora, diciamo che ho raggiunto un'autosufficienza su quello che produci. Nel senso... Dimmi una cosa che non compri più. I pomodori non li compri più. Le zucchine non le compro più, l'insalata non la compro più, coste non le compro più, erbe aromatiche non le compro più. È una cosa che hai provato a fare, invece ancora non ti riesce bene? Le melanzane. Ah, le melanzane, bene. I peperoncini mi hanno dato grosse soddisfazioni, quelli a palloncino. L'anno scorso ho fatto anche diversi vasetti, cioè coltivati, poi li ho riempiti, li abbiamo fatti farciti, sott'olio... Vediamo però... un po', insomma, se altri hanno allargato, però mi sembra che però tu già sei a buon punto. Sai che dà una soddisfazione quando raccogli le tue cose, che sia anche un'aiuola in giardino piccola, ma raccogli le tue cose, mangi le tue cose, hanno un sapore completamente diverso, forse perché maturano al sole e non nelle celle e non in giro. Sì, e poi comunque sarà anche proprio una soddisfazione psicologica poi, di dire l'ho fatto, scusami, io. Sì. Poi finisco, ma poi ti bulli in maniera incredibile, ne so, io faccio le foto, no? E le metto su Facebook dei pomodori, dei... Altri quelli che hanno Farmville, quelli che coltivano ma su no, Facebook. Farmville è tutto, io le mie sono vere, le mie se mangiano, ecco, appunto. Bravissimo, grazie per averci chiamato, sì, anche per noi. 800 24 00 24. E se lo facessi io? Allora, sentiamo, mentre intanto vedo che comunque gli ascoltatori, insomma, hanno esperienza, hanno abilità in questo, però sentiamo intanto i consigli e l'analisi di Adriano Del Fabbro, che ha scritto un libro che si chiama L'Orto, autosufficienza in casa, manuale pratico, un libro pubblicato dalle edizioni del Balbo e che, insomma, adesso ci racconterà un po' lui. Adriano, benvenuto. Ciao, buongiorno. Allora, insomma, è una tendenza che si diffonde questa di recuperare un po' il contatto con la terra anche in piccoli spazi per piccole cose? Pare di sì in tutta Italia, da nord a sud. Qual è, diciamo, secondo te l'approccio più semplice? Qual è, diciamo, la prima cosa da fare se uno volesse farlo e magari non ha, appunto, non so, il padre contadino che dà i consigli o qualcuno di fisico che può guidare? La prima cosa da fare è prendersi un buon libro, no? Un buon manuale, quindi sicuramente approfondire e riprendersi un po' certe conoscenze che sicuramente molti, insomma, non hanno più per tutta una serie di motivi. E ci sono, a parte il mio, ma insomma una serie di libri di ogni tipo, di manuali anche molto puntuali e precisi, proprio perché, perdendosi un po' la manualità, anche chi produce i manuali e i libri pensa a costruirli, a scriverli in modo semplice, in modo pratico, in modo divulgativo, quindi sicuramente sono molto utili per, così, anche fatti a schede, insomma, per avere le informazioni base per poter cominciare. E quanto si spende? Io vorrei, tanto uno che pensa subito che si guadagna, sicuramente si risparmia, però c'è una spesa iniziale, un po' qualcosa che bisogna comprare per forza, un piccolo investimento da fare? Ma dipende molto dalle situazioni, naturalmente, perché se sei sul tuo balcone, se sei sul terrazzo, se sei in un piccolo giardino, se hai l'orto dei tuoi genitori, insomma, un po' di attrezzatura, ma diciamo che sostanzialmente per quello che riguarda l'orto non si può parlare di investimenti, c'è qualche piccola spesa di attrezzatura, di cose per iniziare, ma si può essere anche molto autosufficienti, cioè non dico che gli attrezzi si possano fare da soli, ma sicuramente si può arrivare a riprodursi le sementi, a farsi le proprie piantine, quindi oltre che ad avere proprio i propri prodotti dell'orto, quindi insomma anche il concime se lo può fare da soli, anche molti fra virgolette antiparassitari si possono produrre da soli, quindi insomma diciamo che volendo, però se sei in una situazione di città dove non hai molto spazio, insomma ci sono molte cose che vanno acquistate, ecco. Sicuramente a mio modo di vedere, per tutta una serie di motivi, non si guadagna, si può risparmiare qualcosa sull'alimentazione quotidiana. E poi insomma c'è la questione del gusto e la questione della soddisfazione, abbiamo sentito dai nostri... Certo. Sì, e soddisfazione soprattutto, sì. E per chi poi magari lo spazio proprio non ce l'ha, si diffondono, vediamo anche insomma le possibilità di affittare, le possibilità di mettersi insieme ad altre persone e avere un pezzetto magari di terra in posti che proprio affittano. Io vedevo a Milano, in Veneto, insomma sono abbastanza diffuse queste attività. Insomma, si diffonde sia la consociazione legata alla coltivazione, sia la consociazione delle persone legata all'acquisto, no? Ci sono sempre più gruppi d'acquisto che comprano direttamente o dai produttori o dalle cooperative, quindi anche qui per risparmiare ma anche per avere i prodotti genuini. Ho sotto mano qui proprio le notizie di oggi, ci sentiamo da Udine, sto sulla notizia. E il comune di Udine, come tanti altri comuni che hai citato anche tu in Italia, stanno promuovendo non solo queste iniziative ma andando incontro anche ai cittadini, in questi momenti anche onestamente di difficoltà economica. Qui ti racconto un piccolo aneddoto, perché il mio manuale aveva un altro titolo originariamente, si doveva chiamare L'Orto di Guerra. Perché? Proprio perché mi era nata l'idea, perché l'orto di guerra era ai tempi dell'autarchia, quindi ai tempi del fascismo, erano i tempi poi della battaglia del grano, per cui si coltivavano le aiuole delle città, no? Cioè il duce faceva coltivare tutti, anche nelle scuole si coltivavano i balconi delle scuole, e quindi questo era l'orto di guerra, cioè in una situazione difficile ognuno doveva prodursi il suo cibo. E io mi era venuta questa idea di ripetere, non chiaramente la situazione, ma perché proprio all'avvicinarsi della crisi economica, soprattutto le persone anziane, le sentivo nei bar che dicevano bisogna tornare all'orto di guerra, bisogna rivalorizzare queste cose, e quindi mi era venuta questa idea qua, questa era l'origine del manuale. E allora, tornando a noi, volevo dirvi che, ripeto, proprio a Udine, ad esempio, hanno fatto questa iniziativa di proporre, insomma, alle persone degli spazi pubblici per farsi l'orto. C'erano 15 posti disponibili qualche mese fa e si sono presentati si sono presentate 70 persone, cioè 70 domande. Ora il Comune ha dovuto, ma insomma ha voluto anche fare un altro, come dire, mini appalto, proprio perché le richieste sono talmente tante che il Comune ha pensato, insomma, di moltiplicare la disponibilità. Ecco, quindi questo... la voglia c'è. Ti chiederei, Adriano, qualche proprio suggerimento minimo pratico. Ad esempio, se uno è completamente negato, qual è la prima verdura da approcciare? Ma diciamo che le verdure, come dire, più semplici, fra virgolette, sono anche quelle più diffuse, quelle che conosciamo di più, dico le solanacee, per dire, avete detto delle patate, ma anche il pomodoro, la melanzana, il peperone, diciamo che una volta piantati, sostanzialmente, ecco, magari ci vorrebbe un po' di attenzione nella scelta delle varietà, ma qui ci si può far consigliare, come dire, eventualmente dall'amico fornitore, no? Scegliendo varietà possibilmente resistenti a certe malattie, sia per ridurre la cura che, insomma, non spruzzare eventualmente prodotti, no? Quindi qui, scegliendo, per dire, una melanzana abbastanza rustica, abbastanza resistente, una volta piantata, una volta innaffiata e curata per quel minimo, ecco, già produce la melanzana, ecco, per dirne una, insomma, no? E può partire, se, insomma, da, ecco, da quello. Se uno non ha pretese, come in genere non ci sono, perché insomma una famiglia media, quando ha 5 piante di melanzane, 5 di peperoni, 10 di pomodori, insomma, ce ma sta bene, insomma, sì. Comincia intanto a farsi il sugo ed è già una cosa buona. Io ringrazio Adriano Del Fabbro, ricordo il suo libro L'Orto, autosufficienza in casa, è un manuale pratico. E passo di nuovo agli ascoltatori, 800 24 0024, anche se leggevo qualche messaggio su Facebook, tipo quello di Paola che diceva: riesco a far morire tutto, anche le piante grasse, in compenso attingo ogni fine settimana dall'orto infinita di mia madre. Però vabbè, così è facile, questo è un altro giro di vita. Enrica, pronto? Buonasera. Buonasera. Lei coltiva? Io coltivo insieme a mio marito. Noi siamo due impiegati e viviamo in periferia, in Liguria, e abbiamo acquistato un pezzo di terra che è a fianco della nostra casa e siamo autosufficienti. Autosufficienti nel senso? Riguarda frutta e verdura. Non comprate più niente? Compriamo le mele e i carciofi, perché qui da noi non è abbastanza, il terreno probabilmente non è adatto. E avete qualche produzione eccessiva, cioè qualcosa che vi rimane, che ci fate? Sì, certo, io preparo abbiamo anche dei piccoli frutti e quindi io faccio le marmellate, tutta la frutta la conservo anche per l'inverno. E quindi le pesche, le insomma, prugne. Non si butta via niente. Quanto tempo ci dedicate all'orto? Noi ci dedichiamo tutte le giornate, nel senso che l'orto comunque va seguito. E quindi. Appena tornate a casa. Appena torniamo a casa dal lavoro, nel tempo libero il sabato e la domenica, e quando noi siamo in ferie. Il testimone passa ai figli, quindi ho capito. Devono provvedere a dar da bere. È totalizzante. Non fanno come l'ascoltatrice che ci ha scritto prima, che va poi a approvvigionarsi e basta, senza contribuire. No. Non si fa. Grazie, noi Enrica. Sentiamo Rocco, un altro ascoltatore. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Allora, io volevo parlare del mio orto. Io sono un operaio, un tempo ne ho pochissimo, però essendo molto, come si dice, amante dell'orto, faccio dei salti mortali. Delle volte la sera, fino alle 10 di sera, sono ancora nell'orto. Mia moglie è negata, cioè non ci nemmeno metterci un piede, però faccio tutto da me. E ho tanta roba per la famiglia, abbastanza. Ora ho incominciato anche a mettere delle galline, cioè due o tre galline. Sforiamo nell'allevamento, è più difficile, no, però. No, ma le galline è facilissimo. Se altri animali è difficile, ma le galline è proprio facilissimo. Io regalo le uova qui intorno a casa mia, amici e parenti, e sono tutti contentissimi perché tutto è come il giorno e la notte fra quelle comprate al supermercato e quelle fatte, cioè diciamo quelle nostrane. Ecco, allora diamo anche questo suggerimento da Rocco: lanciatevi anche nell'allevamento delle galline, però certo a quelli che lo fanno sul giardino o sul balcone di casa, la gallina, insomma, può essere un animale domestico? No, non può essere, ve lo dico, non può essere un animale domestico e dà soddisfazione. Io ringrazio tutti voi, Valerio Rocchetti per la regia, Fabrizio Intonti per tutto quanto. Ci risentiamo lunedì. Scriveteci a girodivita@radio24.it, aggiungeteci su Facebook. Io sono Achille Corea, ci sentiamo lunedì. Ciao. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.